13 giorni, considerato appunto le vicende di Frederic, che prima si trova in situazione. Apri un po' la finestra se possibile. Ah, è aperto. Si trova in condizioni difficili, non poter più tornare a Parigi e quindi insomma vicino a Madame Moreau, perché la famiglia è stata, la madre è stata rovinata. E poi, e quindi durante questa condizione, si sente annientato, e vive come un morto, non teneva più a niente. Assolutamente, di tanto in tanto va per le praterie cercando di muoversi, di scuotersi, come capita naturalmente quando uno è un grande depresso. Non so se vi sarà accaduto di attraversare dei momenti di depressione. Lei è accaduto mai di attraversare dei momenti di depressione? C'è qualcuno fra voi che è un grande depresso? Questo mi interesserebbe dal punto di vista così statistico sapere. C'è qualcuno che potrebbe alzare la mano dicendo io sono un grande depresso? Nessuno di voi, Nessuno di voi. Siete tutti perfettamente. Anche lei non è depressa, sta bene, sta su vicino. Lui invece era così e a un certo momento dice sognava cose estreme. Sognava cose estreme, cioè come andare a servire un pascià in Oriente, pensate un po', a farsi trappista in America. Trappista in America, questo è un procedimento narrativo tipico, dicevo, di Flaubert, ogni volta che lo troviamo ci tocca incontrarlo, per cui non soltanto i personaggi sono personaggi da commedia dell'arte, ognuno fa la parte che deve, d'accordo? Ognuno recita il suo ruolo. Ma c'è di più. E lì ha aperto tutto, non si può aprire anche quello, scusate. L'hai aperto tutto? Apri un po' tutto. Per dire, è impossibile. Bravo, chi ha aperto? Era tutto chiuso. Bastardi. Era tutto chiuso. Questo era un prende per i fondelli, era tutto chiuso. Dunque. L'accentuazione della caratteristica. Quindi è una cosa che mi sarà accaduta di sentire anche in un linguaggio comico, che io personalmente adotto molto, anche perché ritengo la monotonia istintivamente da sempre, la mediocrità dell'esistenza tale che mi piace per esempio dire una frase di questo genere, che è esattamente il metodo del Flaubert. Questo è il miglior ragù che io abbia assaggiato dal 1962, no? Questo naturalmente suscita a volte il sorriso, il riso perfino di qualcuno, no? Questa è, insomma, o altra cosa di questo genere, stavo per dire un'altra cosa. La migliore che mi sia fatto dal eccetera eccetera. A che cosa servono queste accentuazioni comiche, umoristiche? Servono a dare, come dire, un rilievo al sentimento che stiamo descrivendo, che stiamo provando, no? E pensate come sarebbe diverso se uno dicesse, per esempio, a proposito di Frederic, se Flaubert avesse detto a proposito di Frederic, che dice, voleva ritirarsi dal mondo, no? Invece dicendo, voleva farsi un trappista, diventare trappista in America, cioè il massimo della solitudine. Oppure andare a servire un pascià in Oriente. Noi in questo modo abbiamo una caratterizzazione superiore. Va bene? Va bene. Era semplicemente questo che volevo dire, che adesso passiamo al capitoletto 14, che adesso vi dico la pagina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, siamo, è molto semplice, all'inizio della deuxième partie. All'inizio della visione. E siamo di fronte a quelle famose bellezze abbastanza semi-nascoste che Flaubert, il titoletto che ho trovato, A Parigi per sempre. A Parigi per sempre. Siamo in una situazione, in una pagina di bellezza segreta, difficile, ma qui siamo in un'alta scuola universitaria e quindi dobbiamo cercare di sviscerare le sottili bellezze. La madre, Madame Moreau, Madame Moreau, certamente, dopo questo colpo di fortuna, l'eredità, eccetera, eccetera, ha cercato in qualche modo di trattenerla. Tutte le madri cercano di condurre in figlio più miti consigli, di impedire che vi abbia. Sicuramente tutti voi vi siete trovati e vi trovate con i vostri genitori a forzare la mano per, non so se ancora si usa, per tornare a casa alle 6 del mattino di 2 giorni dopo, no? Di 2 giorni dopo, per poter fare delle avventure, per poter rischiare. E tutti i genitori di tutti i tempi, in tutto il mondo, hanno sempre cercato di trattenere i figli, perché hanno paura per l'incolumità dei figli. È così o non è così? Mi dica un po' lei. Fino a una certa età, lei sbaglia, perché quell'età a lei, beh, sarà sempre peggio in futuro, glielo sentire, perché lei non ha genitori? Ah, non sembra, non si lascia entrare. Madame Moreau vorrebbe che lui andasse a lavorare, a studiare legge, le sue solite cose, a Troyes. Ha paura di Parigi. Parigi, il solo nome, suscita l'idea della corruzione, del peccato, della dissolutezza, andare a Parigi. Quindi la madre, l'idea che lui torni a Parigi, è abbastanza quieta. Ma la madre lo sa. Perché lui vuole tornare a Parigi? Successivamente vedremo che c'era una ragazza del posto, una ragazzina, che si chiama Louise, che sarà un'altra donna che si inserisce in questo romanzo. Naturalmente il romanzo è pieno di personaggi che voi avrete la bontà di conoscere tutti, uno per uno, per fare l'esame, e di cui invece la possiamo parlare. Louise è una ragazzina, ed è innamorata di lui, come spesso capita alle ragazzine, al ragazzo, così, insomma, più grande. Lui a un certo momento la considererà, per così dire, ma in realtà non ha alcun fascino. E poi lui ha il cuore occupato da cose grandi. Lui vuole partire. Sapete che cos'è la provincia? Il paese. È un luogo da cui andarsene. Io mi ricordo quando facevo vinsi la cattedra 143, parlo ormai anni fa, e insegnavo a Lecce. Lecce è una bellissima università molto importante, con ragazze molto intelligenti. Tutte sognavano di andarsene. Ho insegnato varie università, dove è la provincia, tutti volevano andarsi, tutti, perché è naturale, è nello spirito umano di un giovane in particolare, quello cercare di andarsene. Quindi Frederico vuole andarsene, quindi questa idea del viaggio a Parigi, del ritorno a Parigi, assume un valore simbolico, è, per così dire, il ritorno al paradiso. Allora voi dite, ma perché Flaubert ha messo questa piccola trappola nel racconto per cui la madre perde tutto e lui è costretto a tornare a casa, poi all'eredità e può tornare a Parigi? Perché i paradisi perduti, diceva qualcuno, che si chiamava Proust, sono quelli che si apprezzano di più. Quindi era necessario che lui prima sentisse Parigi come perduta, perché adesso la possa adeguatamente apprezzare. Capite bene com'è la cosa? Quando avviene il viaggio? Avviene di notte. In Madame Bovary c'è un viaggio, di cui io parlo nel mio libro In cerca del mattino, fra le altre cose, che avviene di mattina. Ma è curioso che i due viaggi avvengono sempre nel buio. Uno nel buio dell'alba, e l'altro nel buio della notte. Sono due viaggi verso l'apertura, verso il luogo. E come descrive questo viaggio verso il luogo? Adesso leggiamo, cominciate a seguire il testo. però ancora. E lui però è inebriato, e quando si è inebriati di cose d'amore, uno dimentica la famiglia. Io ho conosciuto fior di ragazze che per amore avrebbero, mi ricordo una, la ricordo in questo momento, bravissima tra l'altro, che i genitori non tornavano a casa, ma lei era così piena di invaghimento che diceva: ma che mi importa se non tornano a casa? Una cosa enorme, gigantesca. Perché quando uno ha il cuore occupato in un certo modo, nemmeno gli affetti più cosiddetti sacri possono sopravvivere. Quindi si svincola, per così dire, dalle braccia della madre e parte naturalmente con quei mezzi di trasporto che erano allora, parte in una diligenza, tirata da cavalli. È una carrozza tirata da cavalli. È ricco. I soldi, ricordate, ve l'ho detto, in Flaubert hanno un'importanza enorme. Perché sono la possibilità, vi ho accennato di quel viaggio che feci in Oriente in cui ebbe una quantità di denaro spaventosa, insomma, quantificabile per 2 anni di viaggio in miliardi, perché voleva, aveva possibilità di averlo, cioè anch'io vorrei viaggiare con dei miliardi, forse anche lei, insomma, il problema è averli, insomma, no? Se lei chiede al suo babbo, come si dice in toscano, vorrei andare in Francia, papà mi dai 1 milione di euro? E qui ci sarebbero delle difficoltà, delle esigenze, ma non su 1 milione, ma 900.000 magari. C'è la donna davanti, avete capito che cosa può essere a una certa età, perché a una certa età, perché non è che la vuole uguale sempre. Uno si innamora a 50, 40, no, c'è un'età per tutto. Biblicamente c'è un tempo per vivere e un tempo per morire, e c'è un tempo anche per innamorarsi. Innamorato, con la possibilità di andare incontro a questa donna, e finalmente ricco, non sta più nella pelle, come si dice. Il viaggio avviene di notte, cerchiamo di vedere una finestra. Perché di notte? Perché lui parte appena possibile, in la prima diligenza, a disposizione dopo le 7 di sera, ma anche perché a Flaubert serve raccontare questo viaggio verso la vita in un modo per cui l'eroe sia completamente occupato da se stesso, e quindi intorno vi sia buio, e l'eroe possa essere con se stesso nel modo che appunto stiamo per vedere. Per cui sentite come comincia: quando fu al suo posto nella carrozza in fondo e la diligenza si mosse, trascinata da 5 cavalli che andavano contemporaneamente, sentì un'ebbrezza sommergere, come un architetto, seguite, come un architetto che fa il piano di un palazzo, lui si aggiustava in anticipo tutta la sua vita, e la empì di delicatezze e di splendori, e questa vita saliva su in alto fino al cielo. Una prodigalità di cose gli appariva, e quella contemplazione era così profonda che gli oggetti esterni erano scomparsi. In fondo alla discesa di Sourdin, vide il posto, vide il luogo in cui erano. Non avevano fatto che 5 chilometri, non segue sul testo, non avevano fatto che 5 chilometri tutto al più. Ne fu indignato. Allora abbassò il finestrino per vedere la strada e chiese parecchie volte al conduttore in quanto tempo sarebbero esattamente arrivati. Si calmò poi alla fine e restava nell'angolino con gli occhi spalancati. La lanterna, sospesa al seggiolino del guidatore, rischiarava i dorsi dei cavalli. Lui non scorgeva al di là delle criniere lui scorgeva al di là delle criniere solo altri cavalli che ondulavano come onde bianche, il loro fiato formava una nebbia, da ogni lato del carro le catenelle di ferro risuonavano e i vetri tremavano nelle loro intelaiature e la pesante carrozza, contratto e quale sempre, correva sul selciato. Qua e là si distingueva il muro di un fienile oppure una locanda isolata da sola. Talvolta, e passando nei villaggi, il forno di un panettiere proiettava luci d'incendio e la silhouette mostruosa, il profilo mostruoso dei cavalli correva sull'altra casa di fronte. Nelle stazioni di posta, quando avevano staccato i cavalli, c'era un gran silenzio all'improvviso per un minuto. Qualcuno scalpicciava là in alto, sotto il cordicione, mentre alla soglia di una porta una donna, in piedi, copriva la candela con la mano. Poi il conduttore saltava sul marciapiede e la diligenza ripartiva. Questa è una pagina assolutamente tipica di quelle bellezze segrete, non clamorose, su cui Flaubert voleva attirare l'attenzione. E quindi noi, seguendo la sua esortazione, cerchiamo di vedere le cose interessanti, belle di questa pagina. Però, quando si legge una pagina di questo genere, quando si leggono le cose belle, bisogna assolutamente fare questo procedimento. Cioè, bisogna abbandonare il luogo in cui si è. E quindi noi dobbiamo provvisoriamente abbandonare quest'aula universitaria in cui siamo e proprio immedesimarci. Perché questa immedesimazione non è un di più, è fondamentale per cercare di capire quello che stiamo facendo. Allora avete capito bene che c'è un viaggio verso il paradiso, non è un viaggio verso un posto qualunque, è un viaggio verso il paradiso. Un viaggio verso il paradiso nella libertà, un viaggio che avviene, dicevo, nel silenzio della sera e poi sarà notte, un viaggio verso Parigi, e la carrozza, guardate al secondo rigo, se branla, si muove. Questo muoversi della carrozza è come il muoversi che c'è in certi momenti nella nostra vita verso nuove cose. Non so se mi sia mai accaduto questo. Non tutti i viaggi erano uguali. Qualche viaggio era definitivo, il viaggio in un'altra città. Voi ricorderete certi viaggi in un modo particolare. Una volta sul muoversi, sul camminare, mi fu detto una cosa bellissima, un maestro zen, pensate che cultura diversa da questa di cui siamo più freddi, diceva che è molto bello camminare, perché? Non solo perché va bene naturalmente al fisico, al corpo, ma perché un passo dopo l'altro ci si lascia dietro la vita passata. E questo mi è sempre sembrato bellissimo e strano, cioè camminare vuol dire che si creano delle distanze da dove eravamo, quindi il muoversi è sempre un inizio di possibile felicità. Infatti appunto il depresso di cui prima dicevamo, che cosa fa? Non vuol muoversi sostanzialmente. E come sapete chi si vuol muovere poco, poi si muove sempre di meno, no? Questo vale in tutte le funzioni del nostro corpo. Se tu mangi poco, ti abitui a mangiare poco, poi mangi sempre di meno. Se tu ti abitui ad andare a letto tardi, poi vai sempre a letto più tardi. È come se il nostro corpo avesse delle inerzie, per cui poi facciamo sempre la cosa che stiamo facendo. Se non ci muoviamo, ecco perché è molto importante, per esempio, quello che si dice alle persone che vanno in pensione, se hanno un'altra attività, che continuino a muoversi. Ci sono dei matrimoni che diventano dei luoghi in cui non si cammina più, si è camminato fino ad arrivare alla soglia del matrimonio, poi si smette di camminare, gli ultimi passi sono quelli che hanno portato, almeno in visioni antiche del matrimonio, hanno portato al cosiddetto altare, e poi non c'è stato più niente. La carrozza si muove, arrivando a questo sebran là, dobbiamo sentire proprio il piacere di questo viaggio che comincia. La carrozza si muove trascinata da 5 cavalli, quindi dobbiamo sentire l'impeto, sentire l'impeto di questa corsa verso il paradiso che comincia. E lui comincia a costruire la propria esistenza. Diventa un architetto, comincia a progettare, ancora una volta. Cosa fa il depresso? Cosa faceva lui fino a poco tempo fa, quando la sua vita era chiusa? Non costruiva nulla, no? E il non depresso, usiamo questa categoria adesso che siamo già su questo argomento, insomma, il non depresso è uno che fa continuamente progetti. È uno che fa progetti. Mi ricordo un caso quando mia figlia era piccola, avrà avuto 10-11 anni, c'era un suo amichetto che lo aspettava nella casa che avevamo al mare. E mettiamo che arrivassimo lì i primi d'agosto, e allora gli diceva, mi ricordo questa conversazione, dice, ci vediamo, allora Valentina, ci vediamo il prossimo anno al 3 agosto. E mi ricordo io allora, che ero assai più giovane, come potete capire, rimasi colpito, ma come si può programmare da un anno all'altro del vedersi? Ma per un bambino, che è evidentemente il simbolo del in condizioni normali del non depresso, il tempo non esiste, per cui uno può programmare tranquillamente da un anno all'altro. Il non depresso progetta continuamente, costruisce continuamente, prende continuamente degli impegni, degli appuntamenti. Il depresso è uno che non scrive nulla tra i propri appuntamenti, è uno che quando gli chiedono di prendere un minimo impegno per il futuro dice va, vedremo, no? Il non depresso è un architetto. Ecco, possiamo dire, anzi questa frase qua giocando sempre un po' sulle parole, insomma, che per sapere se uno è depresso o no, gli si può fare questa domanda. Sei un architetto? Questa è una frase bellissima che vorrei che ricordaste, che gli scriveste a capo del letto. Avete capito bene? Per sapere se uno è depresso, gli si può chiedere, o in modo anche più sofisticato, studi architettura, questo è bellissimo, studi architettura, quello è il simbolo della non depressione. No? E lui si costruisce un avvenire pieno di delicatezze e splendori. Notate queste due bellissime parole, sono parole molto diverse. Cos'è una delicatezza? Me la dice lei cos'è una delicatezza? Chi è che mi sa dire cos'è una delicatezza? Me lo dice lei? A 23 anni deve sapere cos'è una delicatezza. Sì, non quelle da mangiare, ci sono le delicatezze nei negozi. Cos'è una delicatezza? Che lei vorrebbe nella sua vita. Ammazza, le delicatezze sono pratiche, sì. Sì. Non lo sai, penso, chi lo sa per primo avrà un punto in più all'esame. Ma chi lo sa per primo provi lei, dai, una delicatezza. E ha una timidezza congenita, è vero? Se glielo dico allora lo capisce adesso, che è timida. Chi è che mi sa dire, lo dice lei, questo? È difficile, non è facile rispondere. E la storia d'amore può essere però no, una delicatezza vuol dire no. Spremete le meningi. Cos'è una delicatezza? Cioè, sì, certo, non è dubbio. Per esempio, una carezza. Oh, vedete, una carezza. Un pensiero gentile. Un'attenzione. Questa è una delicatezza. E lui sogna le delicatezze e sogna gli splendori, invece sugli splendori abbiamo tutte le idee chiare, no? Però guardate come non è sufficiente per essere felici sognare le delicatezze e neanche gli splendori, cioè nessuna delle due cose basta, ci vogliono le due cose insieme, splendori e delicatezze. Sono opposte, bene o male. Come? Sono cose opposte. No. Io delicatezza la vedo come una cosa bella, però comunque sia una cosa comune. Gli splendori sono quelle cose un po' più rare. Possono coesistere. Ah. Possono coesistere. E in fondo sì, la felicità è sempre un coesistere di diverse bellezze, non di bellezze a senso unico. E queste delicatezze, splendori, questa felicità sale fino al cielo, una prodigalità di cose appare. Prodigalità vuol dire queste gioie appaiono in grande quantità. Sul problema della quantità, il piacere, in che rapporto è con la quantità? Che mi sa dire il piacere, in che rapporto è con la quantità? Più ce n'è, più fa piacere. Questo vale in assoluto? Io faccio dei paragoni gastronomici, potrei fare naturalmente di sessuali, ma insomma, prendiamo un paragone gastronomico che quindi è inoffensivo dal punto di vista del comune sentimento del pudore. E non lo so, per esempio, gli spaghetti alla matriciana, vi piacciono? Vi piacciono. Se voi avete un piatto di spaghetti alla matriciana, va bene, con 5 spaghetti, siete contenti? No. 3? No. 10? 30? Cominciamo, eh? Come vedete, il piacere è anche una questione di quantità, non solo di qualità. Catullo, il grande poeta latino, quando si rivolgeva alla sua amante, a Lesbia, le diceva: non dammi un bacio, ma dammi 1000 baci. C'è qualcuno che questo verso per caso l'ha mai sentito? L'ha sentito bene. Dammi 1000 baci. Perché effettivamente, se avesse chiesto all'amante dammi un solo bacio, e vediamo che l'amante lesbia avesse detto: ma io magari te ne do 3 di baci. No, non è 3 sono troppi, no? È fondamentale anche questo. E così schioro l'argomento sessuale, che è quasi irresistibile naturalmente farlo, però cercherò di farlo naturalmente con tutti gli asintoti possibili. E se uno dice in Cina poco, niente di più, insomma, voi dite: no, ma come niente di più? Una cosa più ricca, non posso andare più ricca, una cosa più monumentale, no? La quantità è importante, ecco perché lui sogna una prodigalità di cose, perché non basta mai il piacere. Tant'è vero che un bambino, che ha un'intuizione immediata di che cos'è il piacere, se tu gli dai una pastarella, il bambino che cosa gli chiede subito? Ne vuole un'altra, ne vuole un'altra ancora, evidentemente, no? Ecco, con queste immagini, lui chiede a un certo momento al conduttore e quante miglia siano state fatte, e naturalmente voi sapete che quando noi abbiamo un desiderio in corpo ci sembra che non ci arrivi mai. Il tempo è una dimensione molto misteriosa. Se voi fate un compito in classe e voi siete reduci dal liceo, quindi vi ricorderete i compiti in classe, a un certo momento vi dicevi: professore, manca un'ora, vi è capitato una cosa del genere, eh? E voi vedete che non avevate fatto ancora un tubo e quindi eravate disperati. Quindi 3 ore magari erano passate e vi sentivate male, insomma, no? Ecco, è tutta una questione. Avevo letto una cosa, c'è una bellissima definizione del matrimonio: la compagnia con te è stata così noiosa che 5 minuti mi sono parsi 30 anni. È bella, però è stata così noiosa che 5 minuti mi sono parsi 30 anni. Ma quando uno è innamorato, sta in un appuntamento, l'avrete visto il problema che uno ha con l'orologio, che il tempo è subito esaurito. È arrivata l'ora di lasciarsi. E a voi vi chiedete: ma com'è possibile che la lancetta dell'orologio si sia mossa così rapidamente? E quindi quando uno desidera qualcosa, al contrario, e dice soltanto 5 km abbiamo fatto, abbassa il finestrino, guarda fuori, guarda fuori. E qui c'è una meraviglia nella descrizione. Perché ci sono segni della notte e della vita. Della notte, che inducono in qualche misura lui, il passeggero, lui, Frederick, a starsene incantucciato. Tutti abbiamo avuto il piacere di viaggi in cui stavamo nel nostro petit coin, nel nostro angolino, in treno, no? Avete pratica di viaggi in treno? Ecco. E allora uno se ne sta nel suo angolino a guardare il paesaggio che passa e si costruisce in quell'angolino col tempo una sorta di abitazione, di casa. Per chi ha viaggiato molto è come stare dentro se stessi. D'altra parte, fuori ci sono i segni della vita. E quali sono i segni della vita? Passa un fienile, c'è un fienile. E poi c'è il forno di un panettiere, il forno di un panettiere, perché che significa il pane, il forno di un panettiere, che immagine mi fa venire in mente, che ci dica un po' lei. Lei è italiana? Ah, il forno di un panettiere, chi è che me lo sa dire? Me lo dice lei? Le piace il pane? Chi è che non piace il pane? C'è qualcuno di voi? No, più o meno piace tutto il pane. Che cosa le fa venire in mente il panettiere? Sì, la roba di notte, questo non c'è alcun dubbio. Ma il pane che tipo di alimento è? Com'è? Universale. Ha un posto fondamentale, lo usiamo come appunto per accompagnare le vivande, almeno qui in Italia, in altri posti no, no? Si chiede quando tu vai in un ristorante, ti portano il pane a tavola, no? E quest'idea del pane che tu incontri adesso di notte in questo viaggio verso la felicità, afferrate che valore simbolico può avere, no? Il forno del panettiere è la vita. Anche qui, usando queste espressioni, in modo uno potrebbe dire che cos'è la felicità? La felicità è un luogo dove siano dei forni di panettiere che ti nutrano, che ti diano la possibilità di alimentarti. I fienili, che cosa vi fanno venire in mente i fienili? Me lo dice lei questa volta? Un fienile, che cosa vi fa venire in mente? Quello che viene in mente. Chi ci sta in un fienile? Il fieno, ma che cosa serve il fieno? A chi? Gli animali. Gli animali cosa fanno? Sono soli? No, no, sono in relazione naturalmente alle persone, va bene? Fieno, pane, andiamo avanti ancora. E poi c'è una bellissima. Oh, dunque, a un certo momento arrivano delle stazioni di servizio, potremmo dire, e si fermano e c'è un silenzio. Quindi prima c'era il rumore della carrozza, adesso si sono fermati. Questo silenzio vi deve far venire in mente quando, per esempio, avrete fatto tutti un viaggio in treno di notte, quando il treno, che fa dudum dudum dudum dudum, poi si ferma in una stazione. E sentite questo silenzio profondo della campagna. E se dormite o dormicchiate nel treno, avvertite che si è fermi, no? Magari al vostro compagno di viaggio dite, che stazione è questa? No? E quindi il silenzio fa parte del viaggio, come il fienile e il forno del panettiere facevano parte della vita, ecco. E poi questa immagine bellissima della donna che ripara la calzetta. Vediamo un poco se arrivate a dirmi qualcosa. C'è una donna che mette la mano sulla candela, in piedi, Sulla soglia di una porta una donna in piedi metteva la mano e tarava la candela con la mano. Chi mi sa dire qualcosa su questo? Questo mettere la mano sulla candela per ripararla, lo sentite come gesto di una consuetudine, come dire, domestica, no? La candela non deve spegnersi, c'è gente viva lì nella casa. Questa donna è andata all'impiedi, sta all'impiedi di fuori, perché? Forse per accogliere qualcuno, forse per accogliere qualcuno, ma sentite come lui si sta muovendo sempre più dentro questo grembo che è la vita. È come se noi ci muovessimo nella nostra esistenza da un grembo all'altro, molto diversi fra loro. Il primo grembo è quello materno. Noi eravamo dentro l'utero. Poi quest'utero, per così dire, si è allargato. È la famiglia, il papà, la mamma, fratelli, sorelle, certi parenti che stavano con noi. E noi siamo vissuti in questo grembo allargato per tutti gli anni, normalmente, naturalmente, per tutti gli anni della nostra infanzia. C'era però un qualcosa che ci faceva uscire fuori da questo grembo allargato. Una sola cosa. La scuola. Quando andavamo a scuola eravamo fuori da questo grembo, con altri bambini. E avevamo, quando eravamo molto piccoli, un senso di disagio, perché eravamo lontani dalla mamma, dal papà, eravamo affidati a queste persone strane e tendenzialmente ostili che potevano essere i maestri. Pian piano, il grembo primo scompare. I genitori muoiono, i fratelli se ne vanno, le persone più vicine se ne vanno e noi ci troviamo in un altro grembo che può essere più o meno accogliente, che è la società, ma può essere anche più euforizzante, perché in fondo nel piccolo grembo da cui provenivamo noi avevamo delle emozioni che erano abbastanza prevedibili in qualche modo, per quanto da piccoli tutto sia imprevedibile, questo anche occorre notarlo. Ma adesso possono esserci delle gioie, delle cose terribili, e lui sta andando verso questo nuovo grembo che sta per accogliere. E sta andandoci con tutte le paure, oltre che con le gioie. C'è un soggiorno che io spesso ricordo del secolo scorso, anzi dell'Ottocento, per la verità, che si chiamava Tönnies, che ha fatto un libro. Che poi è stato ripubblicato in tempi recenti per il suo notevole valore storico, che si chiama Comunità e Società, in cui proprio si racconta di questo passaggio dell'uomo che va dalla Gemeinschaft, dalla comunità, alla Gesellschaft, cioè alla società. E Tönnies scrive esattamente queste parole, che l'essere umano passa dalla comunità, famiglia e intorno alla famiglia, alla società, con grande premura e dice: si va in società come in terra straniera. Si va in società come in terra straniera. E quindi questo momento è quello in cui Frédéric, questo momento del viaggio, è quello in cui Frédéric si apre a questo nuovo grembo che può accoglierlo nella sua vita futura. Lunedì, non so se c'è il consiglio di facoltà, in questo caso le lezioni sono sospese, ma questo vedremo.